Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Mille miglia di un anno ormai lontano, il giorno dà le sue prime boccate, quando sulle strade verdi e piano urlano le grosse cilindrate. Ultime partenze al mattino, quando l'alba non è ancora sfumata, tappate di gomma e di polvere, tutta l'Italia è risvegliata. Capita a volte, facendo questo mestiere, raccontando storie di sport, di imbattersi in piccole grandi gemme preziose, come questa Mille Miglia dall'album Automobili del 1976, con le parole di Roberto Roversi e la voce inconfondibile di Lucio Dalla, che tra l'altro, come ben sapete, era un grandissimo appassionato di motori. Indimenticabili sul tema le sue canzoni dedicate proprio ad esempio a Tazio Nuvolari e da Ayrton Senna. Beh, basterebbe questa musica per fare la puntata, lo confesso, ma qualcosa bisogna pur dire, e non poco, visto che è stata recentemente presentata la nuova edizione della Mille Miglia. Gara che ora è divenuta rievocazione storica e che affonda le radici proprio nella storia del nostro paese, nella cultura motoristica italiana. La nascita della Mille Miglia è legata a quella dell'Automobile Club Brescia, nato nel 1927 dalla scissione dell'Automobile Club di Milano e dalla voglia di rispondere di fatto allo spostamento del Gran Premio d'Italia dal circuito di Montichiari a quello di Monza. Il consiglio direttivo pensò così di organizzare una gara di velocità su lunga distanza riservata alle vetture di serie, che non fosse legata a un circuito, ma portasse le auto sulle strade italiane alla vista e alla portata dei possibili acquirenti. Dopo diverse difficoltà incontrate dagli organizzatori, il conte Maggi, il suo amico conte Mazzotti, il pilota Castagneto e il giornalista Gianni Canestrini, fu studiato così il percorso di 1600 km che porta da Brescia a Roma e ritorno. Beh, non ci crederete, ma abbiamo trovato un prezioso audio per farvi sentire il rombo dei motori della prima edizione, quella del 27. Pare di vederli sfrecciare davanti ai nostri occhi quei bolidi. Sentite un po'. Aldo Bonomi, presidente della Mille Miglia SRL, la società che gestisce oggi la corsa, rivive così la nascita della manifestazione. Chi la fondò era bresciano. Doveva andare in sostituzione fondamentalmente della gara del Gran Premio che poi fu portato a Monza, perché il primo Gran Premio d'Italia fu fatto a Brescia, poi lo portarono a Monza e quindi i bresciani decisero che ci doveva essere qualcosa di importante, e l'importanza era naturalmente andare nella capitale. Ecco perché si partì da Brescia, se ne andava a Roma e c'è il ritorno. Oggi la rievocazione fondamentalmente ripete le stesse cose. Naturalmente una volta lo si faceva in un certo numero di ore, in brevissimo tempo. Oggi, essendo storica, si fa in 4 giorni. Gianfranco Capra, scrittore, pubblicista, storico dello sport, ci traccia invece un profilo di Gianni Canestrini, vero e proprio ideatore della Mille Miglia e che ne divenne poi il principale ispiratore e animatore. Nasce dalla intuizione di Gianni Canestrini, che è stato uno degli sportivi più importanti e interessanti di inizio secolo. Lui era nato nel 1893 per caso a Catania, perché era figlio di un provveditore degli studi che girava ovviamente l'Italia. È approdato a Novara nel 7 e lì è stato qui a Novara fino al 24, facendo imprese già importanti per quell'epoca, cioè fondando il Novara Calcio e poi interessandosi di motori. Scrisse infatti la sua tesi su Leonardo, inventore di macchine, pubblicata dal Di Agostini. Poi ha giocato nel Novara qualche campionato prima della guerra, poi ha preso il brevetto di aereo, appassionatissimo di motori, giornalista. Nel 1924 gli capita l'occasione della sua vita, che lui coglie naturalmente subito, perché il redattore dei motori della Gazzetta dello Sport, già allora il massimo quotidiano sportivo, oserei dire mondiale, aveva una rubrica di motori curata da un certo Lando Ferretti, che era un bravissimo giornalista, che era stato chiamato proprio in quell'anno 24 dal duce Mussolini come all'ufficio stampa del palazzo, diciamo, del governo, proprio ufficio stampa di Mussolini. E allora chiamano Canestrini, che era già abbastanza noto nell'ambiente, e lui accetta e si trasferisce da Novara a Milano. Sposa una novarese, che è la sua fidanzata, non hanno figli. E lì a Milano porta avanti questo discorso dei motori, che allora erano in grande auge. Lui diventa amico personale dei vari Borzacchini, di Varzi, di Nuvolari, Materassi, tutta questa gente dell'epoca. Finché soprattutto diventa amico degli industriali bresciani, che allora andavano per la maggiore perché avevano l'Isotta Freschini, l'OM, avevano diverse fabbriche e banche. Di fatto la collaborazione tra Canestrini e gli imprenditori bresciani fu fondamentale per la nascita della corsa, ricorda ancora Capra. Con due amici di Brescia e i milanesi Mercanti e Castagneto, un giorno si trovano a casa sua a Milano e dicono: ma perché non facciamo qualcosa per risollevare questo sport che in questo momento è derelitto, perché non c'era più corse, avevamo perso un po' la passione per le gare, perché c'erano troppi incidenti, perché le strade erano bruttissime. E dicono: cioè, facciamo un Brescia-Roma. Dicono: no, dicono gli industriali bresciani, Brescia-Roma non ci piace, facciamo allora Brescia-Roma-Brescia. E quanti chilometri sono? Ma saranno 1600 chilometri circa. E uno dei bresciani, che era appena stato in America, dice a Canestrini: allora sono 1000 miglia. Ecco, nasce così la più famosa corsa all'aperto, su strade aperte del mondo. A quel punto però bisognava ancora chiedere il via libera a un certo Benito Mussolini. Se non che qualcuno dice: ma il Duce che cosa dirà di questa cosa? E i bresciani dicono: guarda, abbiamo a Brescia per fortuna il segretario generale del Partito Fascista Turati, e facciamo a lui una richiesta e chiediamo a lui se è il caso. E allora fanno una paginetta, perché la seconda pagina il Duce non l'avrebbe letta, con le caratteristiche di questa manifestazione, e dopo un mese arriva l'ok, si faccia, e partono nel 26, fanno questa prima edizione che dura fino al 56, per 25 edizioni a parte la guerra. E Canestrini li fa tutte queste edizioni, le organizza tutte, fa l'ufficio stampa, fa il giornalista, fa tutto. È proprio il Deus ex machina della Mille Miglia. Nuvola, nuvola, sei una nuvola nera. Dentro fa un cielo sereno, sfascio di primavera. Apre l'elenco dei vincitori la coppia Minoia Morandi sulla bresciana OM e lo chiude Taruffi su Ferrari. La partecipazione si fece sempre maggiore, dai 77 della prima edizione ai 502 partecipanti del 1953, di pari passo di fatto con la passione e la curiosità del pubblico. Molti duelli memorabili, come la vittoria di Giannino Marzotto sul Grande Fangio. Riviviamole alcune di queste edizioni leggendarie. Nel 1940, ad esempio, il secondo conflitto mondiale condiziona percorso e partecipazione. Si corre la nuova Mille Miglia su 165 km di percorso, Brescia-Cremona-Mantova. Il segretario del partito dà il via. Tappe della gara che entrano nel mito per le difficoltà del percorso, ma anche per la grandezza dei campioni che si sfidano tra Brescia e Roma e ritorno, non dimenticate. Epica l'edizione del 1947, con Nuvolari che si vede sfuggire la vittoria a favore di Biondetti, e proprio quell'edizione ispira Lucio Dalla per la sua splendida Mille Miglia. Firenze, sempre in testa il 179, Nuvolari. Ma gli dei maligni hanno detto: Tazio, non vincerai. Prima di Torino, acqua nello spinterogeno. 10 minuti di fermata. Biondetti può così affacciarsi sull'autostrada per Brescia con la vittoria in tasca. Per di più Giove scatena il finimondo. Sotto il cielo d'inchiostro non c'è scampo perché si trovi allo scoperto. L'uragano staffila, schiaffeggia e intirizzisce. In questo scenario ad apocalisse Brescia accoglie Nuvolari. Non sembra più un uomo, ma un naufrago. Non ce l'ha fatta uscire da solo. Hanno dovuto estrarlo. E allora davvero straordinarie le emozioni della Mille Miglia. Prendiamoci però un attimo di pausa, poi qui a Olimpia torneremo sulle strade della corsa più bella del mondo. Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24, Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimenti, necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Olimpia, miti e verità dello sport. Partivano di notte, arrivavano di sera, lungo 1000 chilometri di una fantastica carrera. Di nuovo insieme ad Olimpia, di nuovo insieme sulle strade della Mille Miglia, che quest'anno, lo ricordiamo, si disputerà dal 19 al 22 maggio. Godiamoci insieme la cronaca dell'edizione del 1949, l'ennesima sfuggita al grande Tazio Nuvolari, l'ennesima conquistata dal fenomenale Biondetti, gara segnata in quell'edizione anche da un drammatico incidente e dall'abituale pioggia. Primato di partecipanti, 187, ne ha da organizzare Castagneto. Morandi è stato il primo a vincere questa gara. Nuvolari e Biondetti, fratelli di marca, fratelli rivali. Questa è stata la tappa benzina. A Brescia i pari dei partenti pungono la mezzanotte. Dopo un inizio a 145, Nuvolari è primo a Roma, con una media di 126, 12 minuti di vantaggio, toccherà la mezz'ora. Dopo il cofano seminerà il resto per via, una Mille Miglia segnata dal destino. Questa Maserati numero 67 è pilotata da Amendola, su essa il meccanico Bai corre verso la morte che lo attende per urto contro un palo a Reggio Emilia. Meno sfortunato, Schermi a Roma se l'è cavata con una lieve ferita. A Pisa incontriamo la sgrullata che diventerà cronica. Tenuta a freno dalla raticosa e dalla Futa, la velocità si prenderà la rivincita in piano. Nuvolari, che presso Livorno ha massacrato una palestra, è ancora primo a Bologna, ma a Reggio dovrà ritirarsi. E Biondetti ha vinto anche quest'anno. Non c'è due senza tre. Nessuno è riuscito a tanto. Piloti, fan, emozioni, trionfi, drammi, ma la Mille Miglia è anche spettacolo, fascino, VIP, come in quest'altra edizione in cui ad aspettare il regista Roberto Rossellini al traguardo c'è la moglie Ingrid Bergman. Il controllo segna praticamente la metà corsa. Stanga è finora primo delle Sport 750. Il barone Lazzaroni regola il transito. Rifornimento, bevono motori e uomini rasciugati dai chilometri. L'attesa degli appassionati non è meno ansiosa di quella di coloro che hanno parenti in gara. La bella Ingrid sorride mascherando l'ansia, ma il marito giunge in perfetto orario per il pranzo di mezzogiorno. Un bacio al piccolo Robertino e il film motoristico di Rossellini si conclude con una carrellata verso il focolare domestico. Ma i veri protagonisti, ovvio, erano i piloti. Veri funamboli del volante, come ricorda il presidente della Mille Miglia SRL, Aldo Bonomi. Io credo che fossero veramente delle persone straordinarie, credo che avessero grandissimo coraggio e credo che avessero, oltre naturalmente ad avere grandissima capacità. Era un mondo completamente diverso, però credo che un mondo che oggi purtroppo non ci appartiene più. C'erano personaggi che sono irripetibili. Nuvolari nel 1930 vinse la gara a oltre 100 km all'ora e batté il record e sembrava una cosa pazzesca. Ascari che la vinse, Achille Varzi, e questi furono i più importanti di allora. Non dimentichiamo poi Giannino Marzotto, che la vinse due volte, e lo Stirling Moss, che batté il record con oltre 157 km all'ora. E le auto di allora con le strade di allora. Oggi la gara, dopo il bando alle corse su strada del 1957, è diventata però una straordinaria rievocazione storica, spiega ancora Bonomi. Io ho preso parte a tante Mille Miglia, a quasi 20 Mille Miglia storiche, perché è una grande passione soprattutto per persone che vivono a Brescia, perché la sentiamo veramente nel sangue. Diciamo che siamo dei grandi tifosi della Mille Miglia, oltre naturalmente a essere un evento internazionale, perché anche l'anno scorso erano rappresentati oltre 38 paesi, e quindi credo un numero nettamente importante. Difficile anche oggi però per un appassionato amatore giocarsela con i tanti talenti ancora oggi in gara. Purtroppo che non riesco mai a classificarmi bene, perché ci sono degli specialisti, sono molto bravi. Oramai si lotta sui centesimi, la media oramai è sotto i 300esimi, chi vince sotto i 300esimi credo che sia, quindi sono diventati quasi professionisti, e oramai è una guerra fra italiani e argentini. e veramente sono veramente molto molto bravi, e quasi sembra che diventi il loro lavoro, cosa che per noi invece normali conducenti di automobili abbiamo tutt'altre medie, tutt'altre capacità. Fu proprio Enzo Ferrari a sintetizzare da par suo il momento di passaggio decisivo nella storia della Mille Miglia. Dobbiamo anche ricordare che il Ferrari una volta disse che era la gara più bella del mondo, e poi quando più avanti vide le auto che passavano, disse: è uno straordinario museo viaggiante. Questa è la verità. Dalla gara più bella del mondo a uno straordinario museo viaggiante. Credo che questa sia la grande differenza fra quello che era la storia e quello che è adesso. Anche ai giorni nostri, però, quella folle e straordinaria corsa tra Brescia e Roma conserva un valore culturale e sportivo senza uguali. Guardi, io credo che abbia un valore inestimabile per queste ragioni. Uno, racconta la storia dell'automobilismo italiano, e racconta la storia anche di come è nata la storia delle automobili. Perché? Perché la prima gara che c'è stata è stata fatta nel 1927, e si pensava che dovesse durare tantissimo tempo, perché allora si andava solo in treno a Roma. E lì invece in 21 ore la fecero, fu Minoia il primo vincitore, e la fece in 21 ore, tant'è che allora Duce disse: si ripeterà, perché fu molto veloce. Lì iniziò l'auto del futuro. Ecco cosa vuol dire. Vuol dire la storia vera e propria, oltre naturalmente adesso ad una storia che è completamente diversa, che è una rievocazione. Mille miglia di storia, certo, ma anche mille miglia proiettata nel futuro, sottolinea Aldo Bonomi, pregustando già l'edizione del 2016. La Mille Miglia è un museo viaggiante, è una storia dell'Italia, è il made in Italy vero e proprio, perché rappresenta, per quanto riguarda le automobili, la storia italiana e la storia del mondo delle automobili. Ricordiamoci che le Ferrari sono quelle che hanno partecipato, tra quelle che hanno vinto di più, dall'OM iniziale tanti anni fa, dall'Alfa Romeo, e altre macchine tedesche che ricordano la storia. Inoltre rappresenta l'unione degli italiani, perché parte da Brescia, poi normalmente va a Verona, Ferrara, Roma, Firenze. Credo che questo sia il grande interesse. Per quanto riguarda il futuro, vuol dire esportare l'Italia nel mondo. Lo è già oggi, vengono già effettuate altre gare, naturalmente non uguali, perché la Mille Miglia resta unica, ma sono già state fatte gare in Argentina e in Giappone. Credo che questo voglia dire esportare l'Italia nel mondo. Il Made in Italy, ancora una volta, ha grande successo. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.